Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova emigrazione. Oggi seconda puntata speciale sotto il solleone di agosto per la nostra trasmissione. Torniamo a Parigi per raccontarvi alcuni dei passaggi più importanti dell'incontro tra i giovani imprenditori di Confindustria e 40 professionisti al lavoro nella capitale francese. Incontro ospitato dall'Ambasciata d'Italia, Giovani Talenti ha seguito il dibattito per voi. Lanciamo oggi una idea, direi, di networking fra i giovani imprenditori italiani e l'altra Italia, cioè quella che è all'estero, che non è più soltanto quella delle associazioni dei vecchi migranti, ma che è formata da tanti di voi attivi in questa capitale come in altre, nelle forme più varie. Ho notato con interesse che abbiamo superato l'idea della fuga di cervelli e degli scienziati che vivono all'estero per invece parlare di ricercatori, certamente, ma anche di imprenditori attivi per tutta una serie di motivi che si trovano all'estero. Certo, uno dei primi e prioritari profili di interesse per questo incontro è stato quello di valutare anche la condizione, la situazione di molti di voi, ed è per questo che poi proseguiamo con questo segmento in cui uniamo il gruppo venuto dall'Italia e che fa parte appunto della Confindustria Giovani Imprenditori, con una rappresentanza piuttosto folta, ma certamente non esaustiva, degli imprenditori di analoga generazione che operano in Francia e dei quali alcune facce mi sono ben note a conferma della varietà delle loro iniziative e delle loro attività. Per ora questo è lo scopo della giornata e ne siamo lietissimi. Tuttavia ci siamo anche prefissati alcuni obiettivi forse più ambiziosi, vedere come questo percorso di sinergia fra l'una e l'altra Italia rispetto alla realtà francese possa arricchirsi di scambi e di anche di iniziative utili, produttive, nell'ambito e nel quadro europeo, e tenuto conto delle peculiarità, quasi tutte direi di segno positivo, del meccanismo di formazione della classe dirigente in Francia e del rapporto imprenditoriale con le giovani generazioni. Passo la parola, non so più se al sottosegretario. Poi invece lascio a Jacopo, che in realtà è l'artefice di questa iniziativa che mi sembra davvero importante. Io credo che c'è un'enorme differenza fra scegliere di lavorare in un paese europeo che non è il tuo, e questo mi sembra una scelta assolutamente adatta a un momento come questo. In fondo viviamo in un mondo abbastanza aperto e non ci sarebbe nulla di strano nel decidere di vivere e di lavorare in Francia, se non fosse che uno si sente primo un po' obbligato a farlo se è molto bravo, e secondo non riesce a capire come tornare nel proprio paese se desidera farlo. Quindi la grande differenza è questa: non è che sia, credo per tutti voi che siete delle persone internazionali, che sia strano vivere e lavorare in Francia o negli Stati Uniti o in Cina. Il problema è che uno si sente una specie di prigioniero di questa situazione, perché in Italia effettivamente, per una serie di meccanismi che non funzionano e che assolutamente vanno corretti, non c'è una possibilità di rientro adeguata, cioè non si riesce più a ritornare nell'università, perché l'università o ci stai dall'inizio a presidiare la tua posizione o sei effettivamente di fatto espulso da quella possibilità. Non trovi lo stesso stipendio, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che conosciamo molto bene. Quindi la differenza è fra la libertà di scelta e la necessità di una soluzione alternativa a quella dello stare in Italia. Credo che fino a quando non riusciremo a colmare questo gap, le cose per l'Italia non andranno bene, perché in realtà stiamo attraendo una qualità di lavoro estero molto, se così si può dire, dequalificato, e stiamo esportando il meglio della capacità intellettuale italiana che ancora viene formata in Italia, perché non c'è dubbio che la gente che esce dai politecnici di Milano o di Torino è gente che trova un ottimo lavoro in dei paesi normali. Quindi questa è tutta la, secondo me, tutta la, il problema che abbiamo. E per colmare questo gap stiamo tentando di fare delle cose che però sono dei tamponi, cioè stiamo cercando di creare un network, una rete fra chi vive in Italia e chi vive all'estero, che non è la soluzione del problema, appunto, è un placebo, è una soluzione provvisoria, perché la soluzione vera passa per la capacità di avere una società meritocratica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo però non dipende dalla diplomazia, se Dio vuole, dipende però dall'impegno sia della classe politica che della classe imprenditoriale, quindi dall'impegno un po' di tutti noi. Io credo che sia una sfida decisiva se l'Italia vuole rimanere fra i paesi di punta, come oggi in fondo ancora è, dell'Unione Europea. Grazie, e grazie a tutti voi per aver trovato il tempo e la voglia di questo incontro. A noi come giovani imprenditori di Confindustria fa molto piacere, oggi con me ci sono i colleghi che condividono la responsabilità nella squadra di presidenza e rappresentano un po' tutta l'Italia da un punto di vista geografico e anche dei settori merceologici e produttivi di appartenenza. Una battuta sul perché abbiamo voluto questo tipo di incontro, che ci piace pensare possa essere il primo in Europa e anche di là dall'Atlantico, perché vogliamo, in una fase storica così particolare per il nostro paese e per l'Europa, essere appunto utili all'Italia. I giovani imprenditori sono, mentre Confindustria è un'associazione di imprese, i giovani imprenditori sono un'associazione di persone all'interno di Confindustria che hanno una fascia anagrafica che va dai 18 ai 40 anni, siamo 13.000 in Italia e abbiamo come obiettivo quello di contribuire attraverso la nostra attività al progresso civile e economico dell'Italia. Giornate come oggi vanno perfettamente nella nostra missione. Noi pensiamo che il sistema italiano abbia dei grossi punti di forza, perché parlare di economia italiana e d'Italia è un po' troppo generalista. Voi sapete benissimo, ce ne sono tante Italie anche da un punto di vista produttivo. In certe aree della Lombardia abbiamo la capacità di produzione di valore aggiunto tra i più alti, non d'Europa ma del mondo, in altre invece tra le più basse di tutta l'area OCSE. Lo stesso per quanto riguarda la capacità di produrre cervelli. Abbiamo scuole di eccellenza, non a caso c'è una guerra per i talenti, no? Voi siete tra l'altro la dimostrazione vivente, e dall'altra invece abbiamo degli istituti, soprattutto di scuola secondaria, che producono persone con punteggi internazionali molto al di sotto di quella che dovrebbe essere la media. Sul merito, tante responsabilità certamente ce l'ha la politica, ma più in generale ce l'ha la classe dirigente. In questo non possiamo astrarre o tirare fuori anche gli imprenditori. Quindi molte responsabilità ce l'ha anche chi ha il vertice dell'impresa, nel avere a volte aderito a un sistema consociativo di comodo. In Italia esiste un terreno piuttosto melmoso, paludoso, che è fatto dal rapporto tra denaro intermediato dalla pubblica amministrazione e il sistema delle imprese. Voi immaginate che viene tutti gli anni intermediato circa un terzo, al netto degli stipendi e delle pensioni, del prodotto interno lordo italiano, che sono un sacco di soldi, vengono gestiti direttamente spesso da politici poco preparati, che devo dire consentono ad altri imprenditori approfittatori, in questo caso, di far crescere un sistema che è il totale, è l'opposto di quello che è il merito di una società più aperta, più libera E questo è quello che noi con la nostra azione, e magari anche se avete voglia con il vostro aiuto, vogliamo cambiare e modificare. Quindi noi siamo qua per ascoltare e per lavorare con tutti quelli che hanno voglia all'interno di un'Europa di avere un'Italia più forte, più moderna, più libera e orgogliosa. Grazie. Passiamo quindi alla seconda parte conclusiva del nostro incontro con alcuni interventi di coloro che abbiamo invitato su indicazione dei giovani imprenditori di Confindustria, ma anche sulla base di ampie ed approfondite conoscenze. Lascerei a Gianluca Greco, che ha curato tutta questa giornata, di introdurre ciascuno con una, se mi posso permettere, una parola di riguardo per il primo, che è il presidente e direttore generale di Ecomove, l'amico Meini. L'esperienza che io porto è l'esperienza di Ecomove, che in realtà forse non dice nulla perché è una società che non esiste in questo momento, in quanto la stiamo lanciando da pochissimi mesi. Ecomove è un progetto di autostrade per l'Italia, quindi io in realtà rappresento l'azionista di riferimento, che è nient'altro che Autostrade per l'Italia, quelle che conoscete molto bene. Espatriato temporaneo, quindi in vista di lanciare altri progetti analoghi in altri paesi. La cosa divertente è che in effetti qui abbiamo battezzato in questa sede il nostro partenariato, quindi abbiamo iniziato in un progetto del 2010 per vincere la cosiddetta ecotax. Praticamente in Francia è prevista il lancio nel 2013 di una tassa su tutti i mezzi pesanti, che funzionerà con un sistema molto sofisticato di geolocalizzazione satellitare. Quindi abbiamo previsto un sistema che prevede un investimento in Francia di oltre 700 milioni di euro, che abbiamo recuperato attraverso un project financing multibanca, quindi attraverso banche italiane, francesi e tedesche, e poi un contratto di concessione che durerà per 11 anni e mezzo. Un contratto di concessione che vale circa 3 miliardi di euro. Quindi un progetto che, come dire, di dimensioni molto importanti, anche per Autostrade, che è un'azienda da, come sapete, grande, che vale in borsa circa 7 miliardi, però un progetto da 3 miliardi è per noi un progetto importante. Tra l'altro un progetto pilota, un progetto che si inserisce in tutto quanto un filone di nuovi sviluppi legati alle tecnologie satellitari, che in questo momento ci aprono un immenso mercato. Nel senso che noi adesso stiamo studiando progetti analoghi che, partendo dalla Francia, ci portano in Belgio, in Danimarca, a rifare la Germania, Slovacchia, Slovenia, cioè tutti strumenti che permetteranno agli stati fondamentalmente di trovare un metodo semplice per incassare i soldi, una tassa dai mezzi pesanti. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Continuiamo il nostro racconto della serata parigina che all'inizio di quest'estate ha visto protagonisti all'ambasciata d'Italia in Francia i giovani imprenditori di Confindustria insieme a 40 professionisti della nostra giovane comunità di expats. Chiederei alla dottoressa Federica Mancini, che mi corregga se sbaglio, è responsabile mostre del Dipartimento Arti Grafiche del Louvre, di prendere la parola per darci un po' l'esperienza. Dopodiché daremo la parola, ne approfitto, al dottor Gazzoletti per la parte un po' più finanziaria, diciamo così. È il Deputy CEO di Oddo Asset Management. Passo la parola a dottoressa Mancini. Devo dire che quando ho ricevuto questo invito ne sono stata molto sorpresa. L'ho riletto due volte perché io sono di formazione storica dell'arte, laureata in lettere moderne, quindi una formazione lontana da quello che è il mondo imprenditoriale, e per giunta lavoro nella fonction publique, quindi il Museo del Louvre, Dipartimento di Arti Grafiche. Quindi lo stupore è stato grande, l'ho riletto due volte, però ho deciso di accettare e ho capito per quale motivo mi è stato chiesto di partecipare, cosa che faccio con estremo onore, nel senso che rappresento il Museo del Louvre, rappresento anche il fatto di essere italiana che lavora al Louvre ormai da tanto tempo. Quindi diciamo che è nata come possibilità perché io all'epoca ho aderito al concorso della Borsa Leonardo da Vinci, dovevano essere 6 mesi e sono diventati un po' di più. Mi occupo di organizzare mostre come collaboratore scientifico presso appunto il Dipartimento di Disegni, che è uno degli 8 dipartimenti del museo, sicuramente uno dei più ricchi, ma purtroppo meno conosciuto per questioni di conservazione, quindi abbiamo quasi 200.000 disegni nel nostro fondo, ma dobbiamo costantemente fornire un programma scientifico perché i disegni non possono essere esposti in maniera permanente come le altre arti, come le altre opere. Quindi un profilo di lettere moderne e di storia dell'arte, ho avuto modo insomma in questi anni di confrontarmi non solo alla cultura francese, ma anche il fatto proprio di dire perché il fatto di essere italiana, che cosa porta di più alla mia formazione qui in Francia, al mio percorso di studi. E questa domanda me la sono posta molte volte. Ho iniziato in uno stage in cui eravamo addirittura, un'estate fummo 19 stagiaire su un solo progetto. E di quindi, diciamo, per gli stage venivano presi in continuazione tante persone. Io sono una delle poche a essere riuscita a rimanere. E direi su due punti il motivo che è stato il fatto di essere italiana, che cosa ha contribuito nella mia possibilità di fare quella che chiamerei una carriera ormai in questo museo, uno dei sicuramente più prestigiosi del mondo. Direi che sotto due definizioni che si usano molto per i CV en France, le savoir-être e le savoir-faire. In pratica il savoir-faire, quello è il savoir-être che noi riconosciamo come predisposizioni personali, ma anche proprio direi rispetto alla nostra patria, alla nostra cultura. Il fatto che secondo me geneticamente siamo più portati a essere come dire, elastici e abbiamo una capacità di adattamento maggiore quando ci troviamo appunto in terra straniera, perché di fatto questa è la posizione, e quindi di adattamento più rapido. Per quanto riguarda il savoir-faire io penso sia, e nel mio caso devo dire, è stato riconosciuto sempre fin dall'inizio, non tanto rispetto a me Federica Mancini, ma quanto rispetto alle persone che arrivavano da studi di universitari di storia dell'arte. Una cultura, il bagaglio culturale, una formazione estremamente approfondita, una grande stima rispetto alla preparazione di questa disciplina che è la storia dell'arte, che probabilmente non, se non fosse che siamo anche in questo luogo così bello, probabilmente vi potrebbe comunicare poco, immagino, rispetto, a meno che non sia una vostra passione, ma che resta un elemento fondante e comunque arricchente in tutti i casi, e soprattutto io l'ho scelta anche perché mi rendevo conto che mi faceva bene alla salute, e questo mi ha sempre dato una grande gioia, un grande entusiasmo. Devo dire che io avevo un sogno, non sono fuggita dall'Italia, perché comunque ho deciso, avevo questo sogno un giorno di venire al Louvre, sembrava una cosa impossibile, poi in realtà un giorno ho visto una proposta di stage, ho passato un concorso e dai 6 mesi sono diventati 12 anni, quindi resto orgogliosa e penso che veramente la percezione di come lavoriamo noi gli italiani, almeno in seno del museo, devo dire, è proprio come dire, di grande stima. E allo stesso modo poi con l'esperienza acquisita negli anni, quindi il fatto di andare da un po' di anni ormai spesso in Italia per lavoro, responsabile per opere d'arte che prestiamo per mostre temporanee, anche di grossi valori assicurativi, quindi comunque grosse responsabilità, dall'altra parte diciamo si aggiunge anche l'orgoglio di essere il biglietto di presentazione molto spesso del Museo del Louvre, e che il Museo del Louvre, quindi Francia, veda anche nella nostra presenza italiana veramente una presenza di prestigio da inviare proprio anche in Russia o in Cina, dovunque siamo, dovunque noi prestiamo delle opere d'arte. Dopo il mondo industriale e il mondo della cultura passiamo al mondo della finanza, direi, e do la parola al dottor Gazzoletti. Buonasera a tutti. Allora, la mia esperienza è un'esperienza molto lunga in Francia, perché così non l'ho cercata, ma ho cominciato il soggiorno a Parigi con lo scambio, con la Bocconi era il 95, e dal 95 non sono mai più, io sono milanese, per cui dopo 20 anni a Milano mi ero un po' stufato. La mia esperienza qui in Francia è stata, direi, ho fatto 5-6 anni alla McKinsey. Ed è molto interessante tra l'altro vedere in un'azienda di fortissima cultura americana quanto l'ufficio di Milano e l'ufficio di Parigi della McKinsey funzionino secondo delle logiche e una cultura interna che sono molto diverse, perché chiaramente c'è una fusione con il modo in cui gli italiani e i francesi lavorano. che dà dei risultati diversi, estremamente quasi sbalorditivo rendersi conto della differenza. E poi dopo ho lavorato in due aziende molto francesi, quindi ho proprio un'esperienza di italiano che si è confrontato con delle aziende molto francesi, perché la prima è stata per 4 anni Allianz in Francia. E poi, prima della posizione che occupo in questo momento, mi sono occupato di creare la private bank del Banco Posta francese, della Banque Postale, e quindi insomma più francese di lavorare alla Posta è stato... tanto non hanno neanche capito, la Posta hanno visto sbarcare un italiano che si occupava di private banking e infatti 4-5 anni dopo non hanno ancora capito cosa gli è successo. Ma questa è stata un po' la mia esperienza, quindi in effetti più da expatriate è proprio un'esperienza di immersione nella società francese. Allora, sono globalmente molto d'accordo con tutte le osservazioni che sono state fatte. Due punti che vorrei sottolineare. La grandissima difficoltà della carriera che io ho fatto qui in Francia, e chiaramente è molto più difficile i primi anni, poi dopo diventa progressivamente più facile, ma è un rischio che comunque è sistematico e quotidiano, è che è molto difficile farsi prendere sul serio quando si è italiani qua in Francia. Devo dire che in tutte le aziende in cui io sono passato, e avevo 25 anni, adesso ne ho 39, c'è sempre questo punticino su, ma tu sei italiano, quindi... Dall'altra parte è verissimo che i francesi hanno una grandissima passione per gli italiani, quindi direi che c'è una prima difficoltà, e poi dopo, quando si riesce invece a dimostrare, c'è una connection che non hanno assolutamente né con gli inglesi, né con i tedeschi, né con gli spagnoli. E l'ultimo punto sul networking, non posso che essere assolutamente d'accordo e salutare questa iniziativa di networking, perché il grosso problema anche di noi italiani è che non facciamo network, perché siamo sfrontatamente individualisti. Insomma, queste cose danno comunque un minimo di vantaggio, quindi benvengano questi tipi di iniziative. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto diretto e aperto con i nostri ascoltatori, rubrica che ci accompagna per tutta l'estate. Per cominciare vi ricordiamo subito il nostro manifesto dei giovani talenti, che resterà aperto e sottoscrivibile online fino a metà settembre. Siete tutti invitati a contribuire sul web. Inviateci le vostre proposte per rendere l'Italia un paese di circolazione dei talenti. Sei un giovane professionista under 40 all'estero? Indicaci un motivo che ti porterebbe a tornare. Oppure sei un giovane professionista under 40 in Italia? Allora indicaci un motivo che ti aiuterebbe a restare. Inviateci le vostre idee specificando il paese di residenza e nell'oggetto della email manifesto a giovanitalenti@radio24.it. In autunno renderemo note le vostre migliori proposte online e on air. Per dire la vostra potete scrivere anche a giovanitalenti@radio24.it, oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Veniteci a visitare sul gruppo aperto all'interno del portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti. Soprattutto non dimenticate di visitare il nostro blog ufficiale aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Qui postiamo le lettere, gli spunti e le riflessioni che ci inviate settimanalmente per email. Giovani Talenti rilancia intanto la campagna d'estate. Siamo alla ricerca di nuove storie da raccontare nelle prossime settimane. Se siete under 40, espatriati nei più svariati settori professionali per vedere riconosciuti merito e competenza all'estero, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo le vostre lettere. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.